Benvenuti a tutti, puntata numero 19 per NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 per Radio Big World. Iniziamo subito parlando della prestazione della settimana, che per la verità, da un punto di vista statistico e realizzativo, è destinata ad essere la prodezza dell'anno, probabilmente. Devin Booker, infatti, dei Phoenix Suns, ne mette la bellezza di 70 nella sconfitta dei suoi a Boston. Booker sigla a 20 anni la decima prestazione realizzativa di sempre nella storia della Lega, e questo dovrebbe essere più che sufficiente per capire l'importanza di tutto ciò. Statisticamente chiude con 21 su 40 dal campo, con 4 su 11 da 3 punti e 24 su 26 dalla linea di tiro libero. Prestazione al centro di molte discussioni, sia perché è avvenuta all'interno di una partita chiusa quasi subito da Boston, che forse non si è neanche impegnata troppo a difendere, sia perché è totalmente scollegata appunto dal risultato della propria squadra. A pochi punti dall'ingresso nel club dei 70, Booker aveva di fatto dalla sua tutto il tifo del TD Garden, che ovviamente ha trovato così più di un senso per restare fino in fondo incollati a guardarsi una partita chiusasi piuttosto presto, e una panchina dei Suns oltretutto più che scatenata. Comprensibile, ma comunque bizzarro a mio avviso, vedere i compagni di squadra esultare visibilmente per il libero del 70° punto, con pochi secondi da giocare e Phoenix nettamente sotto. Però in ogni caso la prestazione entra nella storia della Lega e sicuramente della stagione. Nei due quarti conclusivi Booker ne segna 51 dei suoi 70 totali ed obiettivamente si conferma talento tra i più interessanti della Lega, mostrando uno stato di forma ottimale, quello che lo ha accompagnato per tutta la stagione. Non felicissimi, anzi piuttosto critici in casa Celtics, Isaiah Thomas e Joe Crowder, entrambi criticanti la situazione che i Suns hanno messo in moto per permettere a Booker di raggiungere la cifra realizzativa finale a partita più che conclusa. Domenica sera invece parliamo del partitone della settimana. In primissima serata in orario italiano è andata in scena quella che è stata pubblicizzata come la sfida decisiva per l'MVP stagionale. Il quarto incontro tra Houston e Oklahoma City Thunders, per quanto riguarda ovviamente la regular season, sfida riguardante soprattutto i due ex compagni di squadra, Russell Westbrook e James Harden. Sky Sport ha reso la partita visibile a tutti in streaming sul sito di NBA.com da loro gestito. Si tratta quindi di una partita che più o meno avremo tutti visto, sia per l'appeal che conteneva questo faccia a faccia appunto tra questi due giocatori assoluti protagonisti della stagione, anche se probabilmente non sono i soli in corsa per il titolo di miglior giocatore dell'anno, ma lo vedremo più avanti, sia perché dava la possibilità di visionare una delle squadre indubbiamente più sorprendenti della stagione, appunto gli Houston Rockets. I texani, oltre ad avere un Harden in campo agli apici della propria carriera, oltre ad avere in panchina l'indubbio coach of the year Mike D'Antoni, hanno anche due giocatori che probabilmente si sfideranno per il titolo di sesto uomo dell'anno, sto parlando di Eric Gordon e Lou Williams, che non hanno assolutamente deluso. La sfida è apparentemente sentita, soprattutto dai due sotto i riflettori che non deludono per niente, anzi riescono a condensare all'interno del match singoli pregi e difetti, offrendo esemplificazioni ai vari punti di discussione riguardanti la loro stagione. La partita a tratti la domina e comunque la gestisce Houston, che se la porta a casa nel finale per 137-125. Punteggio in realtà bugiardo, perché al solito i Rockets gettano la spugna nel finale gestendo male gli oltre 20 punti di vantaggio, e il cuore di Russell Westbrook riporta apparentemente in partita OKC, okay, sì, seppur nell'ultimo minuto. Alla fine della partita i Rockets chiudono con oltre il 60% dal campo e superando il 50% da dietro l'arco dei tre punti. Ma a questo proposito la statistica importante è quella della fine del primo tempo, quindi dei primi due quarti, dove Houston tra l'altro ha già scavato quel vantaggio di tranquillità che gestirà nei due quarti a venire. Si tratta di un 71% dal campo e 61% da tre di squadra. Nei primi due quarti Houston non sbaglia praticamente mai, e per i Thunders è impossibile mantenersi in contatto ravvicinato, seppur con un Russell Westbrook super. Quello che potremmo definire il supporting cast per Harden di Houston si mostra in tutto il suo splendore per concretezza ed efficacia. Ci sono 24 punti per Trevor Ariza con 6 su 8 da 3 punti, 24 punti anche per Eric Gordon con 4 su 9 da 3 punti partendo stavolta in quintetto, 31 punti con 7 su 8 da 3 per un clamoroso Lou Williams. Anche i lunghi Nene e Capela fanno ampiamente il loro dovere, il primo chiudendo con 17 punti, il secondo con 9 rimbalzi e 11 punti. In tutto questo, il barbone si mostra per il suo punto di forza più visibile, uomo squadra di quello che è un collettivo che davvero può dar fastidio a chiunque nella post-season 21. Per lui 22 punti, 5 rimbalzi e 12 assist. Dall'altra parte è opportuno partire dalle statistiche di Russell Westbrook. Lo 0 chiude con 39 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. È assoluto accentratore, dominatore del gioco di OKC. Al solito anche esageratamente, talvolta gioca davvero da solo, malgrado che i 13 assist alla fine risultino tantissimi considerando la qualità del supporting cast che lo assiste. È palese che, a differenza di Harden, Westbrook sia costretto a condurre una squadra nettamente inferiore nell'unico modo che gli riesce, trainandola con energia infinita, lottando continuamente senza dar né pace né pausa al suo corpo. Onestamente adoro il suo modo di giocare ed il suo approccio sanguigno alla partita. Temo che a livello di playoff si potrà in realtà impensierire poco chiunque, e la più probabile tra l'altro nel primo turno pare sia proprio Houston per incontrarla, anche con lui capace di offrire prestazioni simili. In ogni modo è proprio il caso di dire che le partite le vince o le perde da solo, che è più che un uomo franchigia per i Thunders, è proprio tutta la squadra. A parte lui, piace molto Enes Kanter, che continua a dare garanzie offensive, diciamo solo quelle, partendo dalla panchina. Il resto è ampiamente da rivedere a mio avviso, anche se ammetto mi sia apparso piuttosto positivo l'innesto di Taj Gibson, soprattutto in avvio di partita. Per dovere di cronaca, vedere un Westbrook provarci con tutto se stesso a poco più di un paio di minuti dalla fine, con la partita obiettivamente andata tra schiacciate e triple incredibili, denota ancora una volta di più le sue capacità agonistiche fuori dal comune, a giustificazione delle sue statistiche. Il titolo di MVP è un premio personale, è vero che contano tanto i risultati di squadra e quanta sia l'influenza del giocatore all'interno della stessa, ma esistono altre gratificazioni rispetto ad altri lati del gioco, vedi ad esempio il premio di difensore dell'anno, o ben più importanti a livello di squadra, vedi appunto il titolo NBA. Secondo me quest'anno nessuno può togliere il premio dalle mani di Russell, anche se, a detta di molti, non è il favorito. Questo match, ovviamente assolutamente non decisivo per una corsa all'MVP stagionale dibattuta come mai quest'anno, mi obbliga a fare però un punto della situazione e a dare le mie previsioni definitive al riguardo, tra l'altro a poche settimane dalla conclusione della stagione. Brevemente i pareri su quelli universalmente riconosciuti come i quattro finalisti, diciamo, di categoria. Si tratta appunto di Russell Westbrook, James Harden, Kawhi Leonard e LeBron James. Escludo dall'otto Stephen Curry, per quanto leader di quella che probabilmente sarà la miglior squadra della Lega a livello di record anche quest'anno. Lo escludo perché obiettivamente la sua ottima stagione è nettamente inferiore alla mostruosa dello scorso anno e rappresenta un'involuzione statistica, principalmente anche a livello di percentuali, rispetto alle ultime due assolutamente sorprendenti. Diciamo che Steph ci aveva abituato male, diciamo che si può anche non vincere questo premio per 3 anni di fila, diciamo pure anche che l'obiettivo principale per lui e per gli Warriors sarebbe quello di tornare a mettersi l'anello al dito al giugno, quindi non me ne voglia Curry, ma la sua candidatura io la liquido in questa maniera. Iniziamo invece a trattare gli altri quattro. Partiamo da Kawhi Leonard, è indubbiamente stella silenziosa di una squadra vincente, in lotta con i Warriors per il primo posto nel top ranking della Lega. Il sistema Spurs è destinato a non evidenziare naturalmente un singolo dominio all'interno del roster, tuttavia Leonard sta viaggiando a cifre offensive tra le più eccellenti della Lega ed è assolutamente anima e corpo di una squadra che, orfana quest'anno del Totem Tim Duncan ritiratosi la scorsa stagione, sta compiendo una stagione obiettivamente fantastica. Quello che fa a livello difensivo, come detto da tutti, è unico all'interno dei quattro aspiranti al titolo personale. È nettamente il giocatore più influente nel lato del campo meno appariscente della Lega. A livello di impatto pubblicitario è comunque nettamente il più debole dei quattro. Probabilmente però è uno dei più forti a livello di rapporto tra influenza sulla squadra e vittorie. Difficile, se lo vincesse lui, essere contrario. LeBron James. Il re non può vincere sempre questo titolo, diciamolo subito. Tuttavia è il giocatore più forte della Lega, lo sappiamo, obiettivamente è così. Ulteriormente ha compiuto una regular season dove si è risparmiato ben poco anche a livello di minutaggio, per quanto ogni tanto si sia presentato in campo con un consapevole freno a mano tirato in vista della post-season. Una cosa che comunque non gli ha impedito di emergere come il più devastante, a mio avviso, a livello di controllo sulla partita. Ha raggiunto una maturità a livello di gioco forse unica. È totalmente in controllo di se stesso, in controllo dei compagni e del loro rendimento. Viaggia a medie vicinissime alla tripla doppia e soprattutto ha evidenziato un livello di visione di gioco raggiunto degno dei più grandi assist man della storia, a mio avviso. Ci sono alcuni suoi passaggi geniali in questa stagione. Non può ovviamente vincerlo sempre lui, lo ripeto, e per questo probabilmente non lo vincerà. In ogni caso, la sua stagione dominante, impressionante, a suo modo devastante, pur senza voler dar troppo. Per vederlo a livelli di realistica espressione di se stesso, basterà ancora aspettare poche settimane con l'avvio dei playoff. James Harden. Come detto, il fulcro della squadra più sorprendente della stagione. Statistiche pazzesche, gestione dei compagni ottimale in un sistema di gioco che lo ha reso regista delle operazioni. La squadra intorno a lui è perfetta per esaltarne le caratteristiche e per questo chiuderà la stagione probabilmente come miglior assist man della Lega. Il talento offensivo lo conosciamo benissimo. La fiducia che D'Antoni ripone in lui è conosciuta e sta dando ottimi frutti. Inesistente però nel lato difensivo del gioco, ma indubbiamente potenziale MVP stagionale senza dubbio. Non è il mio favorito assolutamente, ma non si può non riconoscere comunque l'ottima stagione che sta compiendo. Arriviamo a Russell Westbrook, che è invece il mio favorito. Molto probabilmente chiuderà la stagione con una tripla doppia di media, attentando realisticamente anche al record di Oscar Robertson per record di tripla doppie totali in una stagione. Il suo supporting cast è il più debole a disposizione di tutti quelli che accompagnano gli altri tre competitors al titolo. Si prende più di qualche posa difensiva, è vero, e contemporaneamente un accentratore di gioco eccessivo. Sappiamo benissimo, da soli non si vince in uno sport di squadra, suo malgrado, anzi si rischia di perdere anche molti palloni, una delle statistiche che gli vengono più criticate. Con la partenza di Durant però non aveva altre soluzioni per sfogare quel senso di abbandono e l'obiettiva sparizione delle chance di raggiungimento delle finals più che realistiche la scorsa stagione nella tornata passata di playoff. Westbrook è un guerriero vero, è atleticamente pazzesco e energicamente irreale. Quei numeri che sta mantenendo dall'inizio della stagione non possono non essere premiati ulteriormente in una lega che mette l'analisi statistica in cima a tutto in modo quasi ossessivo. Sarà pure troppo istintivo, ma a mio avviso non si può non premiarlo. Nella corsa all'MVP io personalmente tendo a tenere per lui e punto tutto su di lui. Nottata molto interessante, quella del 27 marzo. I Raptors battono i Magic con 36 punti di un super DeMar DeRozan. Risultato interessante perché nella notte si apre ufficialmente la crisi di Cleveland, sconfitta sonora contro i San Antonio Spurs per 103-74. I campioni in carica tirano con il 37% dal campo e il 15% da 3, e questo la dice lunga. A proposito della sfida tra MVP potenziali, LeBron chiude con 7 su 17 dal campo, 17 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, ma abbandona la partita nel terzo quarto, infortunatosi dopo una gomitata presa al rimbalzo. È comunque il migliore dei suoi, dall'altra parte invece Kawhi Leonard chiude con 25 punti, 6 rimbalzi, 6 assist in 30 minuti. 14 punti anche per la Marcus Aldridge, 14 per Paul Gasol, 12 per Manu Ginobili. Gli Spurs scappano già nel primo quarto chiudendo sul più 10. La notizia conseguente a tutto ciò è questa: Cleveland perde il primo posto ad est a favore di Boston, con Raptors e Wizards molto vicini ad inseguire, ma ne parleremo meglio a breve. Sempre a proposito di MVP, vittoria di un punto di OKC su Dallas. In back-to-back Westbrook chiude con 37 punti, 13 rimbalzi e 10 assist. Registra la tripla doppia stagionale numero 100 della Lega ed è un record. Segna a pochi secondi alla fine il tiro del sorpasso e della vittoria finale che fissa il punteggio sul 92-91. A poco meno di 4 minuti dalla fine, Dallas conduceva 90-78. A questo punto il numero 0 segna 12 punti sui 14 totali di squadra in un parziale pazzesco, compreso appunto il tiro della vittoria. Si tratta della sua tripla doppia numero 37. Il record dei Thunders quando lui va in tripla doppia al momento è di 30 vinte e 7 perse. Insomma, come detto già precedentemente, si tratta di un accentratore forse tendente a giocare troppo da solo, ma indubbiamente uno dei singoli giocatori più devastanti della Lega, se consideriamo proprio la capacità di determinare un parziale essenzialmente da solo. Quindi mi ripeto, anche per questo, per me lui è l'MVP della stagione. MVP e titolo di MVP che, tanto per tornarci ulteriormente sopra, secondo Kobe Bryant, mai come quest'anno dovrebbe essere dato ex aequo tra Westbrook e Harden. Abbiamo già sviscerato la questione, ma lasciatemi dire che se mai una cosa del genere accadesse si tratterebbe di una pagliacciata colossale. Me ne viene in mente una simile nella stagione 1995, riguardante però il titolo di rookie dell'anno, l'ex aequo tra Jason Kidd e Grant Hill. In quella stagione Grant Hill entrò nella Lega come il nuovo Jordan. Un sacco di attenzioni, un sacco di sponsorizzazioni. Obiettivamente però giocò una prima parte di stagione devastante che se non erro gli valse anche la convocazione in quintetto per l'All-Star Game. Si trattava di un ragazzo di buona famiglia, talentuoso, educato, molto pulito. La classica stella positiva che la Lega spinse fin da subito. Dall'altra parte però c'era il caro Jason Kidd, che entrò nella Lega con la nomea di personaggio un po' problematico e sicuramente poco avvezzo ai riflettori. Carburò più lentamente di Grant Hill, ma sia a livello di impatto sugli allora Dallas Mavericks, sia a livello di completezza statistica, alla fine della stagione tutto il mondo si rese conto di quanto geniale fosse questo giocatore e di quanto potenzialmente avrebbe potuto determinare gli equilibri della Lega futura, cosa che tra l'altro è avvenuta. A quel punto però a mio avviso l'NBA non poteva assolutamente rimangiarsi l'incoronazione a priori fatta al povero Grant Hill, e dico povero perché comunque senza gli infortuni staremmo parlando di un indubbio Hall of Famer. Per questo optarono per quella soluzione del premio ex aequo che io definirei senza mezzi termini una paraculata pazzesca. Auguriamoci che la previsione o consiglio che sia di Kobe non trovi riscontro nella realtà, anche perché altrimenti avremmo buttato tutta la seconda metà di stagione ad appassionarci a questo duello incrociato tra Harden e Westbrook, a discutere su chi sia il migliore tra loro due, senza dimenticarci di Leonard e James poco dietro rispetto agli altri due a mio avviso, come già detto. E chissà poi che appunto alla fine salomonicamente l'NBA o comunque chi vota non decida proprio di regalare il titolo, regalarlo se lo sarebbe guadagnato, proprio a Kawhi Leonard in modo molto salomonico per tagliare la testa al toro. Diamo un rapido sguardo alla situazione classifica in vista di playoff quasi imminenti, anche alla luce dei risultati del 28 marzo. Al solito vi ricordo che sto registrando ed è mercoledì 29 marzo. Situazione interessante adesso, dove Bagar divisa in due, lotta per i primi 4 posti con potenzialmente tutte le posizioni in bilico, lotta per gli ultimi 4 con almeno 2 squadre che sognano di inserirsi per l'ottavo posto. In soldoni ci sono 7 squadre ravvicinatissime a giocarsi 4 posizioni. Per quanto riguarda invece la vincente di conference, Boston ha scavalcato Cleveland al primo posto, con dietro Washington, reduce tra l'altro dalla vittoria nella notte del 28 di marzo contro i Lakers che tampina Cleveland da vicino, vittoria avvenuta grazie anche ai 34 punti di un super John Wall, e subito sotto Washington i Raptors che hanno solo una gara di differenza. La lotta per i vertici è quindi interessantissima, ma al di sotto è tutto indeciso. Al momento risultano fuori dalla griglia, ma potenzialmente hanno più di una speranza per rientrare, Chicago, Detroit e Charlotte. Questo anche perché gli Heat, che al momento sono ottavi, battono con un tiro allo scadere di Hassan Whiteside i diretti concorrenti di Detroit, mentre i Pacers, attualmente settimi, perdono in casa contro Minnesota malgrado un super Paul George a 37 punti, ma grazie ad un Cole Anthony Towns a 37 punti, 12 rimbalzi, e grazie anche ad un 3 su 3 dalla lunetta di Ricky Rubio a 3 secondi dalla fine, che vale per i Timberwolves il sorpasso definitivo. Con tante squadre coinvolte nella rincorsa verso uno scacchiere playoff raramente così incerto sia in testa che in coda, ma comunque ben diviso tra le prime 4 potenziali semifinaliste di conference e gli altri, gli scontri diretti sono inevitabili. Milwaukee allontana le speranze in coda di Charlotte vincendo, sempre nella notte del 28 marzo, la sfida per 118-108. 26 punti per Tony Snell, 20 per il solito Giannis Antetokounmpo, per neutralizzare i 26 di Kemba Walker e i 20 di Kaminsky dall'altra parte. Ovviamente impossibile fare previsioni a questo punto, con la crisi di identità di Cleveland che rischia di poter scivolare anche al terzo posto a vantaggio dei Wizards, soprattutto se LeBron e compagni non decidono di recuperare concentrazione e fiducia sui propri mezzi. Tra le inseguitrici, a prescindere dalle mie previsioni ovviamente errate nella puntata precedente e dal fatto che Wade ha chiuso anzitempo la stagione per infortunio, Chicago sembra adesso l'interlocutore principale per provare l'arrembaggio all'ottavo posto. Dell'otto attualmente dentro vedo come più debole o quantomeno più potenzialmente discontinuo Indiana, ma probabilmente dovremo aspettare l'ultimissima giornata a disposizione per capire quello che vedremo e soprattutto chi vedremo ad est per i playoff. Ad ovest, per quanto riguarda San Antonio e Golden State, San Antonio non sta mollando, ma Golden State sembra proiettata a chiudere verso il miglior record della regular season e della Lega anche questa stagione. Terzo posto saldissimo per Houston, che rischia di ritrovarsi al primo turno proprio OKC, e quindi rinnovare in zona proclamazione MVP, tra l'altro, la sfida incrociata Harden contro Westbrook. Proprio tra Warriors e Rockets, sfida diretta nella notte appena trascorsa. Hanno la meglio i campioni in carica per 113-106, scavando un parziale difficile da riprendere già nel primo quarto, chiusi in vantaggio per 37-20. Tra gli Warriors sono 32 punti, 10 rimbalzi e 7 assist per Stephen Curry. In attesa del rientro di Kevin Durant previsto nelle ultime gare della stagione regolare, seppur ovviamente con il contagocce. Tripla doppia, tanto per cambiare, per James Harden con 24 punti, 11 rimbalzi e 13 assist, che però non bastano a Houston. Per il quarto e il quinto posto se la giocano Clippers e Jazz, ma sarà probabilmente un influente a livello di probabile incrocio playoff, visto che le due posizioni sono destinate a scontrarsi e che, a meno di un miracolo da parte di Westbrook e OKC, appaiono piuttosto tranquille di mantenersele. Per l'ottavo posto la sfida è fondamentalmente tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers, due squadre appaiate che probabilmente risolveranno la questione all'ultimo respiro, anche loro al photo finish. Intanto, nella notte appena trascorsa si è consumato uno scontro diretto che ha visto vincitori i Blazers per 122-113, con un Nurkic vero valore aggiunto da 33 punti e 16 rimbalzi contro la sua ex squadra, tra l'altro un McCallum da 39 punti ed un Damian Lillard piuttosto tranquillo con 19 punti, che sta vivendo però un periodo strepitoso di forma nell'abituale ed ennesima rincorsa di Portland ai playoff. Oserei dire che con John Wall il caro Damian Lillard si sta confermando tra i più in forma nella fase conclusiva della stagione. Dietro a Denver, scivolata così al nono posto, all'orizzonte si intravedono solo Dallas e New Orleans, praticamente con lo stesso record ma piuttosto distanti visto il numero di partite che mancano alla conclusione. Chiudiamo con un piccolo ricordo, quello di un personaggio che ha fatto la storia della Lega senza mai calcare il campo, che ha lasciato questa dimensione la settimana scorsa. Si tratta di Jerry Krause, deceduto prematuramente lo scorso 21 marzo. Krause è stato architetto di una delle più grandi squadre di sempre, quei Chicago Bulls dei due three-peat, due roster diversi tra loro, abilmente costruiti e ricostruiti da uno dei general manager tra i più vincenti di sempre, criticatissimo ed odiatissimo soprattutto in epoca di fine anni 90. Non è stato Krause a scegliere Michael Jordan. Krause arrivò nel 1985 a Chicago, ma è stato il suo genio a costruire intorno a MJ un'impalcatura che frutterà nel 1991 il primo titolo per la franchigia dell'Illinois. Le scelte al draft di Horace Grant, la scelta di Scottie Pippen ottenuta in una trade con Seattle nell'immediato post-draft, l'arrivo precedente di John Paxson e in seguito del centro Bill Cartwright in cambio dell'amatissimo da MJ Charles Oakley. Queste furono le trattative o comunque le operazioni principali di Krause per arrivare al primo three-peat, costruendo ulteriormente una panchina di specialisti guidata da un coach al tempo novizio promosso da assistente proprio grazie al volere di Jerry Krause, legacy il signor Phil Jackson. E poi il lavoro in seguito al ritiro di MJ, la scommessa Tony Kukoc, l'approdo di Rodman quando nessuno nella Lega avrebbe mai avuto il coraggio di prenderlo come pedina fondamentale per il repeat dei three-peat, la ricostruzione mediante lo smantellamento di una squadra che ancora avrebbe potuto vincere con la firma di un coach rivelatosi inadatto come Tim Floyd, voluto ardentemente al posto di Jackson tanto da scatenare le ire degli addii di Pippen e Jordan, è stato invece, diciamo, il suo canto del cigno o quantomeno il motivo per cui si è guadagnato una reputazione piuttosto pessima nel fine degli anni 90. A suo modo però Krause è stato un visionario, spesso controcorrente e contro la volontà delle stelle più rappresentative che lo hanno talvolta sbeffeggiato, pubblicamente criticato, fattogli la guerra fino al giorno della sua dipartita, quando finalmente però anche MJ gli ha giustamente tributato gli onori meritati. Convinto da sempre che l'organizzazione stia alla base del successo di una squadra, smentito più volte in questo da un Jordan che ha sempre replicato e comunque vada in campo ci vanno i giocatori e i titoli li vincono loro, Krause ha secondo me davvero dimostrato quanto la perseveranza e un lavoro progressivo di un ottimo general manager possono trasformare una squadra mediocre in una squadra di successo. Certo, con un Jordan all'interno del roster questo è assolutamente più facile, ma per quanto si voglia estremizzare questo concetto sappiamo benissimo che un giocatore non fa una squadra. E se proprio dovessimo provare a cercare un modello di riferimento nel mondo dei general manager sportivi, qualcuno che sia un ottimo scout, capace di scommettere sul suo istinto e le sue valutazioni soprattutto, anche a prescindere dai giudizi e dalle pressioni esterne, quello è stato proprio Jerry Krause. Per questo, pace all'anima sua. Benissimo, ci sentiamo la settimana prossima con NBA Week. Grazie per l'ascolto, buon proseguimento di settimana. It's over. It's over. It's over. It's over.